scorsa e come continueremo a fare, cercheremo di entrare in contatto con una serie di interlocutori, perché naturalmente noi abbiamo questa mattina in particolar modo parlato un po' più di San Lorenzo, ma il problema naturalmente a Roma non è solo San Lorenzo, e in generale ci sono anche realtà ancora più complicate, più difficili da questo punto di vista, pensiamo al Pigneto. Più tardi speriamo di entrare in contatto con alcuni compagni e cittadini del Pigneto che ci daranno alcuni elementi che gli ascoltatori di questa radio hanno già sentito per certi versi, ma cercheremo anche di ragionare un po' sul filo del discorso di ieri. Tenteremo di nuovo di metterci in contatto con qualche realtà istituzionale che ha qualcosa da dire su questa campagna, così io l'ho soprannominata, però magari è sbagliata. Non so quanto sia sbagliata, perché comunque dicevo nativi contro conigli morti, anzi io a questo punto chiedo alla regia uno sforzo di fantasia e di trovare il punto esatto in cui i five corner erano five o four corner. Erano five, però spiega anche a chi non è cinefilo di cosa stiamo parlando. Cinefilo, mo non esageriamo, voglio dire. Gangs of New York, Brad Pitt, se ci avete presente. Leonardo DiCaprio. È vero, non è... No, è DiCaprio. È DiCaprio? Meglio ancora. Scorsese e DiCaprio. Scorsese e DiCaprio. Peraltro, l'ultimo film di Scorsese? No, qual è l'ultimo film di Scorsese? L'ultimo film di Scorsese è The Wolf of New York, che dobbiamo ancora vedere. Programmazione. Poi oggi esce. Mi ricordo, comunque sì, mi pare oggi. Oggi o domani. Poi ha fatto il film muto, poi ha fatto Departed, che anche quello parlava di cose che ci riguardano da vicino. Vabbè, insomma, in particolar modo nel prima film... c'era stato Casino a proposito di gentrification. Gangs of New York, questa storia ambientata nella New York post-indipendenza, durante la guerra civile americana, in cui continua lo straordinario flusso di immigrati, in particolar modo in quel periodo irlandesi cattolici, nella New York dominata dagli interessi degli anglosassoni protestanti, da un punto di vista del commercio e del comando della città, in piena guerra civile, e gli uomini che scendono dalle navi, che arrivano da un'Irlanda devastata da una delle più grandi carestie della sua storia, vengono direttamente arruolati nell'esercito unionista, con quello del nord l'esercito dei liberatori. Naturalmente siamo nel pieno dell'isteria antinera o antinegra, letteralmente, che portò a pogrom, peraltro, proprio a New York. E il film racconta questo scontro epocale tra delle gang di malavita che dominano i bassi fondi di Five Corner, appunto questo incrocio, questa piazza, questo incrocio di strade, con questo scontro attraverso gli occhi di un bambino che ha vissuto la morte del padre. Adesso non ve la stiamo a fare tanto lunga, con queste scene epiche di battaglie a suon di mazze, coltelli, bottiglie, armi improprie di tutti i tipi, in cui i gruppi, in particolar modo c'è il gruppo dei nativi, che fanno riferimento, sono nativi perché sono nati in America e quindi sono in qualche maniera hanno più diritto degli altri, e i conigli morti, nati da Daniel Day-Lewis, The Butcher, sì, il macellaio. Pure a San Lorenzo c'è un macellaio, però devo dire che il macellaio di San Lorenzo, almeno quello da via, per il nostro così, di riferimento, non è così sanguinario. E i conigli morti sono, diciamo, la banda di riferimento dei cattolici irlandesi o di origine irlandese, ma in generale tutti quelli che in qualche maniera sono sottoposti alle angustie della polizia, delle istituzioni, del sistema politico e anche delle gang che li sfruttano. Appunto, tornando a questo nativi contro conigli morti, il problema forse è un po' più anche largo di San Lorenzo. In particolar modo sappiamo che la situazione del Pigneto è molto particolare, sappiamo che la situazione della Certosa è molto particolare, i fenomeni sono diversi, la situazione anche di Torpignattara, per non parlare di tante altre realtà. Ogni luogo ha delle caratteristiche, delle storie particolari. Però quello che torna fuori e che emerge in questa campagna di stampa, di propaganda, di pressione politica, nativi contro conigli morti, è il rilancio dell'emergenza sicurezza. L'articolo che era un po' che mancava, se vogliamo, si era perso un po' di vista dal momento che c'erano altri problemi, diciamo, all'orizzonte immediato. Forse proprio perché i problemi cominciano a essere veramente pressanti, bisogna trovare una maniera per sviare l'attenzione e concentrare la rabbia, tra virgolette, delle persone su degli obiettivi più semplici, tutto sommato. Non se la si può prendere sui poveri immigrati in fuga dalle guerre civili che provengono da Lampedusa, perché noi siamo politicamente corretti e quindi l'umanità ci caratterizza, perché siamo una grande democrazia e quindi siamo ci piange il cuore nel vedere i bambini sui barconi che affondano il Mediterraneo, e questo ci fa anche, insomma, abbastanza onore, tra virgolette. Però quando questi bambini crescono e magari entrano in competizione con i nostri bambini, la situazione si complica, le vicende si complicano. Comunque, la cosa che troviamo sulla cronaca di Roma del Corriere della Sera, dopo gli incidenti dei giorni scorsi, riguarda San Lorenzo al setaccio, in manette pusher e coppia di ricercati. Aggiungo io, italiani? Boh, non so. Prima reazione della questura. Se non viene specificata l'etnia. Allora, vediamo un po'. Prima reazione della questura a San Lorenzo dopo gli incidenti che si sono verificati alla fine della settimana scorsa e all'inizio di questa, con l'assalto al centro sociale in via De Volsci, gli spacciatori picchiati e l'esplosione di alcuni ordigni artigianali. La polizia ha arrestato 3 persone nel corso dei controlli nel rione, durante i quali sono state identificate 150 persone. In manette anche in manette sono finiti un pusher romano di 40 anni che aveva trasformato la cantina di casa in una serra per coltivare marijuana, e 2 ricercati, un italiano e un africano. L'anno scorso è solo la polizia ha arrestato a San Lorenzo 103 spacciatori su 120 persone finite in manette. E vabbè, e questo era San Lorenzo. In realtà la cronaca registra di uno scippo che adesso io non c'ho sotto mano, è la Repubblica, credo. Sì, è lo scippo a Trastevere, una turista che è stata malmenata, quindi Trastevere allarme scippo. Dopo l'allarme cinese, allarme scippo. Sì. È tutto l'alfabeto, ci puoi fare. E poi c'è la persona che è stata uccisa con un a Casalotti, e anche di lui i vicini dicono fosse un narcotrafficante. Quindi se uniamo questo, guarda, quando uno muore va sempre infamato, non trovi mai uno che dice no, era una brava persona, o è il contrario? Di solito è il contrario, pareva proprio una brava persona e poi si scopre. Però i vicini intervistati, chiaramente poi noi non sappiamo quante persone sono state intervistate, e mi permetto di dire se sono state intervistate, dicono questo è un residence per persone che hanno i soldi, quindi per malviventi, quindi si dà, diciamo, un giudizio di valore su una classe, cioè su chi ha un grosso conto in banca, però soltanto in questi casi. Sì, e abitano in quel residence. Però stamattina c'è anche una notizia tragica, no? Un incidente, sì. Quello che si presume, sì, sia un incidente in un residence. Sì, l'abbiamo visto. Che ha coinvolto un paio di persone, adesso io non ho letto. Una persona bene, sicuramente è deceduta, però 3 persone sono gravi e non è la prima volta, ci dicono, che è successo questo. E questo è il quadro, no? Il quadro di una giornata normale. Come dicevamo un po' ieri, il problema è cercare di capire che aria tira in questa città, che aria si sta crescendo, e come è possibile mettere mano su un piano politico, perché è l'unico che ci interessa, e quindi sul piano della mobilitazione, della comprensione dei fenomeni, della possibile risposta collettiva anche a quei fenomeni che effettivamente, tra virgolette, minano la possibilità di una convivenza civile nei quartieri romani. Perché non credo che ci dobbiamo nascondere, nonostante noi denunciamo sistematicamente l'abuso che fanno i media mainstream di queste notizie per avviare delle campagne politiche, che la situazione nei quartieri romani, specialmente nelle periferie e negli ex quartieri storici di periferia della città, è una situazione indubbiamente pesante, complicata dalla crisi, dalla paura, dalla difficoltà di sbarcare il lunario e anche da una aggressività e violenza che è frutto della disperazione. Sì, è frutto della disperazione al mattino e la sera è frutto dell'abuso di sostanze a volte, perché forse sono frutto tutte e due della stessa disperazione. Certo, certo. Però per esempio io ricordo, avendo abitato anch'io in questo quartiere, avendo dei ricordi molto belli di questa abitazione, che io avevo una vicina che mi aveva preso, diciamo, come se fossi una ero più giovane di lei, quindi mi raccontava i posti giusti, i posti non giusti dove andare. Il problema era un problema abbastanza semplice, c'erano dei posti dai quali non dovevi passare perché non ti conveniva, perché era gente non per bene, diceva lei, e poi tutto il resto era la normale vita in un quartiere popolare veramente, perché nell'89 questo poteva essere definito un quartiere popolare, un quartiere come tutti gli altri. Dopodiché sono cominciate non solo le speculazioni immobiliari, ma sono cominciate anche altri meccanismi, diciamo, diversi. Per essere molto chiari, tra i miei vicini di casa c'erano i cosiddetti, cioè due persone che erano appunto ladri abituali, venivano considerati, tant'è vero che poi ogni tanto erano domiciliari, venivano i carabinieri a controllare se fossero o meno così, erano due gemelli, quindi giocavano molto sul fatto che uno sembrava l'altro, però insomma era un condominio di questo quartiere dove poi le case cominciarono a costare anch'esse 4.000 euro al metro quadro o 4.500 nel momento della famosa follia immobiliare, dove però un giorno io stavo uscendo da casa e c'è stata una volante che è passata, ha sparato in aria, cioè il proiettile nel cornicione, per poi dire: oh no, cavolo, abbiamo sbagliato, non era qui che dovevamo fare il controllo. Cioè esisteva anche questo, cioè San Lorenzo è stato anche il quartiere dove a via di Porta Labicana c'è stata quella famosa strage dove sono state trovate morte almeno tre persone e sulla quale cioè se sempre, cioè i giornali stessi non hanno indagato, e anche questi erano segnali. A via dei Campani 69 è stata trovata morta un'anziana signora e tutta la via è stata bloccata negli anni 90, non mi ricordo, penso nel 92, tutta la via dei Campani è stata bloccata ed è venuta, è stata allora che noi abbiamo visto tutti gli ordini di polizia, c'era pure la polizia veterinaria, cioè ci sono stati anche episodi di delitti efferati come in tutto il territorio cittadino. Non è mai stata un'isola felice, non è mai stato lo schifo che vogliono dipingere, non è sempre stato un quartiere, come si dice, composito. Dopodiché io penso che a volte, come diceva prima lui, bisogna ragionare, bisogna dire, però a volte bisogna anche avere il buon gusto di non parlare delle cose che non si conoscono, cioè secondo me. Sì, anche perché il racconto, anzi la narrazione, come va di moda dire, di questi tempi la conosciamo bene, l'abbiamo vista tante volte. C'è un quartiere possibilmente popolare, che è un quartiere modello dove tutti convivono perfettamente, dove non ci sono problemi, dove tutto gira per il meglio, e poi a un certo punto c'è l'inserto esterno che rovina tutto, per cui persino i cittadini e le cittadine che, essendo popolari, sono buoni, da democratici e tolleranti, questa è un'altra delle parole che è stata utilizzata tanto dai giornali negli ultimi giorni, diventano loro malgrado intolleranti. E la storia di questo quartiere ci racconta un'altra vicenda. Insomma, questo è un quartiere che è nato come discarica sociale poco più di 100 anni fa, è nato come discarica sociale e poi è sempre stato un quartiere di immigrazione. E quando ci raccontano che qui siamo nella Roma più vera e profonda, allora cerchiamo di capirci su che cosa significa questo. Se significa, come penso io, che romano è chi vive e lavora in questa città, va benissimo. se per romano si intende quella categoria mitologica del romano di sette generazioni, questa è assolutamente una fesseria. No, lì devi andare un po' più al centro. Un po' più al centro e in palazzi un pochino più alti e messi meglio. No, ma per essere più chiari, che questo quartiere fosse un quartiere appunto composto dalle persone escluse dagli altri posti, non erano neanche escluse, manco ci potevano andare ad abitare, è la prova perché Maria Montessori apre il suo asilo qui perché lei fa un discorso sì democratico, sì d'apertura, sì di diritti civili, e dice anche i figli dei matti, anche i figli dei barboni, anche i figli e le figlie delle persone che vivono male, che vivono nei bassi e che hanno delle attività economiche assolutamente non remunerative, sia che siano legali sia che siano illegali, hanno diritto a un'educazione e non li devi più considerare dei ritardati mentali. Lei apre il suo primo asilo, il suo asilo qui, perché appunto crede in questo. Ed essere un quartiere di scarica sociale non significa assolutamente offendere nessuno, diciamo. Martin Scorsese dice di New York, della città che lui ama, che è una città nata sulle strade e dalle lotte di tutti gli immigrati, e Roma, oserei dire, fin da prima dei tempi dell'impero romano era un crogiolo di persone che parlavano lingue diverse. Ma visto che insomma abbiamo anche il redattore non solo cinefilo ma anche che lo fa il cinema, la nostra battaglia per i 5 points nel nostro piccolo ce l'abbiamo avuto anche qui. Il mio bisnonno, che è stato un immigrato in questo quartiere perché è venuto da un paesino della Ciociaria nei primi anni 20, e insieme a lui tanti, perché c'è stata a un certo punto delle tante ondate, un'ondata di lavoratori ferrovieri che venivano da quella zona, sono stati ficcati qui a San Lorenzo, e all'epoca, stiamo parlando di 90 anni fa, però può insegnare qualcosa. Ci fu un contrasto fortissimo fra gli indigeni che vivevano in condizioni subumane e i nuovi arrivati che vivevano un gradino leggerissimamente più su, perché avevano delle case dove ogni 10 appartamenti c'era un cesso, mentre quelli che vivevano qui dovevano andare nel campo, con tutti i contrasti, le lotte, le violenze che si possono immaginare e che qualcuno può rivedere da un punto di vista urbanistico anche adesso, perché la parte settentrionale di San Lorenzo è quella con le case di cooperativa dove andavano a stare i ferrovieri, che sono fatti in un modo, dalla parte diciamo sud della Tiburtina erano fatte in un altro modo, e la cosa è andata avanti così nel corso degli anni, perché sono arrivati le varie ondate migratorie interne, i sociari, i marchigiani, poi dopo gli abruzzesi, poi dopo quelli che venivano dal sud, poi dopo quelli che venivano da un po' più lontano, e sempre diciamo in un incontro confronto che c'è stato. Il problema a livello... Siamo alla saggistica storica. Eh sì, però siccome la storia dovrebbe essere maestra di vita, insomma non ce la scordiamo, e soprattutto non dipingiamo un Luna Park che non c'è mai stato. Non c'è mai stata la discarica, non c'è mai stato l'orrore, ma non c'è mai stato neanche il Luna Park. Vabbè, io dopo questo saggio importante e significativo del... No, adesso a parte le battute, ma è vero, cioè è profondamente vero, San Lorenzo, come in realtà la gran parte della città, nasce e cresce con il contributo dei migranti che vengono a costruirla letteralmente, la città. Credo che forse il microfono non arriva all'ambiente. E è vero, in realtà io adesso in questo momento vi volevo semplicemente far ascoltare un pezzettino dei Gonigli Morti, dovrebbe essere sui 5 point. No, ce l'ho qui già pronto, basta che mi fai partire il computer esterno. Aspetto. Difficile ste radio tecnologiche nuove. CD2, credo. Okay. Proviamo? Vai. Non è CD2. È evidente. Forse lo devi switchare. Ci provo? Vabbè, insomma, dicevamo, adesso ci riproviamo, abbiamo dei seri limiti di tecnologie applicate. No, adesso a parte tutto il discorso che si faceva sulla storia di questo quartiere, perché Perché è importante? Perché poi intorno a certe mitologie sulle appartenenze, su chi è nativo, chi non è nativo, chi ci è cresciuto, si creano anche dei falsi miti, no? Cioè, si creano delle possibilità. Non tutti sanno che la piazza, diciamo, Piazza Vittorio è una delle piazze in cui per alcune decine di anni hanno dormito sotto i portici in costruzione gli operai immigrati da fuori che non sapevano dove dormire e che costruivano la città umbertina, per esempio, che poi sono diventati gli abitanti di questo quartiere, di altri quartieri. Insomma, in generale è una storia di questo tipo, è una storia di conflitti fondamentalmente, anche perché immediatamente nascono dei conflitti con chi abitava qui magari da in un periodo precedente, che si vede completamente stravolto, perché Roma passa da poco più di 150.000 abitanti alla presa di Porta Pia, adesso le cifre potrebbero essere confuse, a immediatamente a 400.000-500.000 persone, e non sono tutti preti, perché i preti in quel momento non ce la passavano tanto bene, e erano soprattutto piemontesi, erano soprattutto che venivano per fare gli impiegati, dirigenti nello Stato nascente dopo lo spostamento della capitale da Firenze a Roma. Sono quelli che mi sono dato al saggio storico. Non se ne può fare a meno. In attesa di far funzionare Gangs of New York. E comunque Gangs of New York l'avevamo citato anche prima, giustamente, perché poi l'immaginario, per fortuna, alcune cose in comune ce li ha. Io mi volevo riferire anche, faccio una parentesi di mestiere, anche alla stupidaggine scritta, non mi ricordo su quale giornale, che i bambini appunto si vergognano di dire che sono di San Lorenzo. Cioè, questa cosa è veramente, cioè, a me dispiace che si mettano davanti ai bambini e le bambine quando non si hanno più argomenti, ma essendo del mestiere, le scuole pubbliche di San Lorenzo, le scuole elementari e dell'infanzia, non hanno mai goduto di una particolare, come si dice, buona fama. Hanno una buona percentuale, purtroppo, di evasione dal diritto allo studio dei bambini, e io prima di dire che questi bambini che frequentano soltanto il loro piccolo ghetto, anche perché nessuno vuole parlare con loro, si vergognano di dire di dove stanno, io comincerei a ragionare su queste brave persone che insomma non tutelano abbastanza i diritti dei cosiddetti più deboli. Prima di iniziare a pensare a tutto il resto, uno dovrebbe sempre guardare se stesso, la propria vita, anche se non sono familista, il proprio ambiente. Sì, questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto, ci è arrivato un sms che ce lo segnalava, è che un altro degli scandali che colpisce in particolar modo San Lorenzo è la sua storia di sinistra, quindi intorno alla una storia vera che anche, diciamo, è diventata anche un po' una mitologia, della San Lorenzo resistente contro la marcia su Roma, della San Lorenzo degli artigiani comunisti, che fa parte della storia di questo quartiere, ci mancherebbe altro. Non è che qualcuno se dovesse immaginare che da San Lorenzo, quando ci fu la marcia su Roma, ci fu un'insurrezione generale e decine di migliaia di sanlorenzini imbracciarono tutto quello che c'erano in mano per contrastare la marcia su Roma. Fu una resistenza di popolo, però minoritaria, dentro un contesto comunque difficilissimo, con l'esercito schierato, con tanti arresti, con tante persone, anche con alcuni morti, se ricordo bene. Però insomma, la storia di un quartiere con delle tradizioni di organizzazione proletaria che tenta di una risposta in quell'occasione e precedentemente, con la maggior parte dei sanlorenzini a fare pesci in Brasile. Mi permetti un altro inserto, diciamo, storico? Nel 2003 c'è stato il sessantennale del bombardamento qui a San Lorenzo, no? Ci sono state tante manifestazioni, ovviamente ricordi, ed è stato edito un bellissimo libro fotografico, e non solo, soprattutto su la storia del quartiere fino al bombardamento. Metà di questo libro fotografico era dedicato alle foto dei fascisti a San Lorenzo nel ventennio e alla presenza dei fascisti, fra l'altro anche, cioè, molto centrato, vedete qui la casa del fascio, qui questo, qui quell'altro. Ma sarebbe stato assurdo diversamente. Sai, dopodiché il facitore di questo libro, che non è di simpatie di destra, diciamo tutt'altro, interrogato sul perché avesse fatto questa scelta, ha detto: perché è ora di finirla con le scemenze. Io che sono stato qui e mi sono visto tutto quello che è successo, so che c'è stata la resistenza, so che è successo nel 22, però non possiamo cullarci nell'idea che questo quartiere per 20 anni non ha visto la presenza delle istituzioni fascisti, perché sarebbe folle, fuori dal mondo, pensare una cosa del genere. Probabilmente inclinare la mitologia, sì, però fa parte delle reazioni, è necessario, al, come se, insomma, quando un pezzo di storia viene dimenticata completamente, quando viene ricordata di nuovo, delle volte se ne dà un'interpretazione un po' troppo netta, un po' troppo però se non ci combatti tempo, non trovi soluzione. Sì, anche andando avanti nel tempo, anche il racconto della San Lorenzo, diciamo, proletaria, San Lorenzo asilo dei movimenti, che è una storia vera, nel senso che la via stessa, via dei Volsci, ma tante altre strade, tante altre sedi, una storia vera vissuta dentro questo quartiere, anche, lo sai, tutte le sedi delle principali formazioni politiche della sinistra c'era. Sì. Dopodiché non è che l'occupazione di via dei Volsci fu vissuta immediatamente, l'occupazione che poi diede vita dopo, l'occupazione abitativa, anche alle sedi, perché le sedi precedenti dei comitati autonomi operai in realtà erano in affitto, erano più avanti in fondo a via dei Volsci, se ricordo bene, quelle che furono chiuse dalla magistratura. Quell'occupazione non è che fu vissuta improvvisamente come ah che bello, sono arrivate 300 famiglie disperate dalle periferie romane e vengono a vivere a San Lorenzo, ma vissuta con i conflitti, i problemi, le questioni, e anche con quelle forme di solidarietà e capacità anche di quella che era una Roma popolare, che oggi sembra un po' sparita dalla circolazione, con tutte le contraddizioni. Però io forse ho trovato il pezzo sui Five Points. Ci proviamo? Ce l'abbiamo, vediamo se è questo. No, ce l'ho trovato pure io. Voglio mandare io. Se, provaci, dai. Vai, vado, Vai. Devi alzare il cursore, però. È alzato, è alzatissimo. Ma c'è qualcosa che non va. Vabbè, prova a mandarlo tu, che te devo dire? Vediamo se è lo stesso. Vediamo se è il mio. È tutta qua, prete, la nuova armata del Papa? Un paio di vecchie megere e una manciata di luridi straccioni? Oh, andiamo, Bill. Hai giurato che era una battaglia fra guerrieri. Mica un incontro tra femminucce. E infatti io guerrieri ho portato. Bene. Su mia sfida! Secondo le antiche leggi del combattimento, ci incontriamo qui, sul terreno scelto, per stabilire una volta per tutte chi dovrà comandare sui Five Points. Se noi nativi, forti del diritto di nascita su questa bella terra, o le orde forestiere che la imbrattano. Per le antiche leggi del combattimento, io accetto la sfida dei cosiddetti nativi. Voi tormentate il nostro popolo a ogni occasione, ma da oggi in avanti non ci tormenterete mai più. Sia a tutti noto che la mano che tenta di spazzarci via da questa terra sarà mozzata senza pietà. Che possa il Signore dei Cristiani guidare la mia mano contro voi, papisti romani! Preparatevi ad accogliere il vero Signore! E dopo, con un po', appena un po' di fatica e con rimbombo della cassa esterna della regia, che è ancora molto forte in realtà, vi abbiamo fatto sentire questo pezzo perché secondo noi questo pezzo è un po' la sintesi del dibattito culturale che attraversa in questo momento un po' alcune parti della riflessione politica sulle vicende che ci hanno raccontato. Ecco, noi non vorremmo che si riducesse tutto solo a questo, perché in realtà è la situazione un po' più complicata, e in particolar modo la situazione è più complicata dalla condizione, diciamo, la condizione in cui la maggior parte degli immigrati di nuova e vecchia generazione si trovano a vivere la crisi insieme agli italiani, e questo è un argomento che secondo me è molto importante da sviluppare. È molto importante perché è l'elemento con cui un sistema che fa della gerarchia, cioè della costruzione delle figure simboliche, del posto giusto in cui stare dentro la società, sei un insegnante, sei uno studente, sei un imprenditore, sei un lavoratore, sei un impiegato, delle gerarchie, la forma in cui non solo lo sfruttamento economico, cioè la possibilità di guadagnare più o meno soldi, ma anche la figura proprio e quindi l'inclusione e l'esclusione dei processi determina la tua ricchezza, ma determina anche il tuo capitale simbolico da investire nella realtà. E mi sembra, non so se voi siete d'accordo, che sul capitale simbolico dei migranti ci sia una battaglia in corso in questo momento. Per certi versi sembra che il capitale simbolico di chi scappa dalle guerre in questo momento e raggiunge l'Italia attraverso i barconi o attraverso altri strumenti è un capitale simbolico abbastanza forte da permettere in questo momento una sorta di immunità. Perché, per esempio, vi faccio l'esempio di Colleoppio, che conosco un po' meglio vivendo nei dintorni dell'Esquilino. I migranti che vivono da alcuni mesi accampati all'interno del parco di Colleoppio, con tutte le conseguenze del caso, visto che piove, fa freddo, stanno in tenda, tentano disperatamente di asciugarsi, accendono dei fuochi, ce n'è qualcuno che vive sugli alberi, per la maggior parte sono... Che non è un modo di dire. No, vivono proprio su, ce n'è uno in particolare a costruire una casa sugli alberi, ha un capitale simbolico in questo momento, essendo rifugiati e quindi in attesa del riconoscimento dello status di profughi, di rifugiati politici, credo, comunque profughi di guerra, in cui sì, vanno, fanno i controlli, però non entra in testa alle persone che lo Stato, alla fine, e la magistratura e la polizia, oltre a controllare che non ci siano spacciatori, che non ci siano, non se li può portare tutti e scaraventare dentro una buca, che non c'è un posto dove metterli. Colpa delle amministrazioni che non hanno nulla da offrire, colpa di leggi, come dire, troppo liberali da questo punto di vista, ma fatto sta che il capitale simbolico per cui intorno a questa vicenda anche la destra reazionaria che in quella zona diciamo simbolicamente abbastanza forte, che poi si identifica nella destra sociale perché è una zona ricca, con belle case, con non tanto la parte dell'Esquilino ma la parte di Colleoppio, si trova nella difficoltà di fare una battaglia contro il degrado, ma non poter imputare ai rifugiati più di tanto, perché appunto in questo momento il loro capitale simbolico è forte. Quello che mi sembra un capitale simbolico un po' meno forte in questo momento è quello degli immigrati. Tutti quelli sfruttati e clandestini, naturalmente, ma quelli sono proprio l'ultima ruota del carro, ma in particolar modo un altro, diciamo, capitale simbolico in discussione nella crisi è quello di chi in questa crisi, nonostante tutto, è immigrato di prima o seconda generazione, ma che è riuscito a mettere insieme un percorso di imprenditoria che dà molto fastidio. Eh sì, perché il problema è appunto... Ognuno il suo posto, diciamo, siamo abbastanza come dire, occidentali e democratici per ritenere che si arriva un disperato che vive in condizioni disperate non gli si debba dare la zappa in testa, siamo nelle condizioni di poter ritenere normale che possa avere anche delle, diciamo, forme di lavorative di sopravvivenza di un certo tipo, oltre un certo livello, però la cosa non va bene, insomma, e lo abbiamo visto anche qui, nel momento in cui si passa, diciamo, dalla dimensione di sguattero anche alla dimensione immediatamente successiva di microcommerciante o anche ambulante, evidentemente i freni inibitori vengono meno. O quantomeno si apre il conflitto per cui è giusto o non è giusto, è pulito o non sono puliti, fanno cattivo odore o non fanno cattivo odore, ma al di là di queste banalità, che sono anche la vita quotidiana delle persone, mi sembra che il punto essenziale sia proprio quello sul riconoscimento, cioè se la gerarchia può essere messa in discussione e quindi gli usi e i costumi dei nativi possono essere messi in discussione da usi e costumi diversi, che sono sostanzialmente gli usi e costumi che molti dei nativi vanno a conoscere quando vanno nei resort sul Mar Rosso, piuttosto che Madagascar, piuttosto che la settimana tutto compreso, che fa tanto, diciamo, chic nel senso che modo di dire. Tanto stanno in delle gabbie dorate in cui vedono poco della realtà di questi paesi, ma comunque il profumo orientale, che poi la puzza di cipolla invece è un problema. Ma stiamo parlando di un fastidio, di un problema, o stiamo parlando proprio di un problema di capitale simbolico per mantenere le gerarchie e per spartire una miseria? Ecco, rispetto a questo noi abbiamo messo un attimino da parte la questione della competizione sulla violenza, sullo spaccio, sulla... ma non ci immaginiamo che anche su questo terreno non ci siano meccanismi molto simili. Certo, esattamente, o cioè, quasi o per, esattamente lo stesso tipo di ragionamento. Forse sì, forse c'è anche questo, no? Forse si può essere relativamente tolleranti fino a un certo punto, per poi non parlare di questioni che invece sono molto più chiare, molto più evidenti. Ieri si accennava alla questione della lotta sulla contraffazione e quindi ai venditori ambulanti che merciano le merci contraffatte delle griffe italiane, più che vanno dai copri cellulari alle borse, passando per gli occhiali, ma fino a poco tempo fa software diciamo piratato, CD musicali a seconda delle richieste del mercato se parliamo per esempio della vicenda che ha attraversato tanti lavoratori nordafricani al Pigneto, ce l'hanno raccontata, ma ci piacerebbe pure che ce la riraccontano, e anche da altri punti di vista, molti abitanti di quella parte di città. Si è trasformata dalla vendita ambulante di merci contraffatte a uno stato di disperazione e prostrazione e di uso e abuso di sostanze stupefacenti. Uso e abuso con tutto quello che è connesso, perché una persona che usa sistematicamente sostanze stupefacenti in maniera sistematica è difficile di solito che possa sopravvivere senza il piccolo spaccio, senza il piccolo, come dire, traffico, a meno che non sia proprio di buona famiglia e quindi insomma risolve il problema facendo solo il cliente. Buttiamo altra carne al fuoco. Sappiamo che la prossima settimana, non so la data esatta, ma magari qualche ascoltatore ce lo può ricordare, ci sarà una manifestazione antiproibizionista a Roma, anche esito della riapertura di un dibattito tra due settimane, anche esito della riapertura di un dibattito sull'onda della scala internazionale. Sì, sull'onda della liberalizzazione in uno stato americano di cui non ricordo il nome. Nel Nevada, in California, sì, e in Uruguay. Però in particolar modo nel Nevada, perché la liberalizzazione avviene non per usi farmaceutici, no, non come farmaco, ma come mezzo ricreativo della cannabis. C'è la questione dell'Uruguay. E diciamo, sembra un po' incrinata l'idea che si debba continuare questa guerra insensata alle sostanze stupefacenti. Per adesso si è affrontata la questione delle droghe leggere, si riapre questo dibattito. Però anche dentro questo dibattito, che di per sé è interessante, speriamo di riuscire a portarlo avanti al meglio, e speriamo che le persone abbiano voglia di esprimersi e anche di scendere in piazza, lo diciamo molto chiaramente. Anche dietro a questo però c'è da farsi delle domande. C'è da farsi delle domande, perché è un fallimento del mercato? Non ho capito bene. Improvvisamente vendiamo le poste e apriamo le farmacie specializzate oppure lo dobbiamo appaltare al privato? Perché già è appaltato al privato. Sì. Diciamo però il privato è criminale. La legge che rende il privato criminale, o è il privato che è criminale, o è la sostanza che è criminale, o chi la vende agli altri è criminale? È una domanda, sono domande aperte che secondo me meritano una discussione ampia, anche perché se no tutto questo si riduce effettivamente a veramente poco. Noi ci prendiamo un attimino di spazio musicale, pausa musicale, che quest'oggi la regia musicale non è per niente attenta al tema che stiamo trattando. Lo so, del resto deve essere attenta alle necessità redazionali, quindi non si può chiedere. È una lamentela ufficiale. Prediligeresti? Per me per adesso puoi anche rimettere i 5 points come punto battente. Secondo me colpisce, poi intanto ti scegli una selezione. Qua prete, la nuova armata del Papa?

Ej, momci, hoćemo li šabac na vašar? Hoćemo. Da idemo da se proje.